andata via. Corri con me, anima mia, questa vita sai è difficile, il mondo non si cura mai di te. La la la la la la la la la. Questa qua, e questo è il prezzo da pagare per la realtà. Ogni volta che ti guardo, mi piaci come sei.